Letture di Radio 24. In Italia c'è un prodotto interno lordo che procede più lentamente di quello economico, è quello culturale. Il dato emerge dall'indagine Nielsen sull'acquisto e la lettura di libri commissionata dal Centro per il Libro presieduto da Gian Arturo Ferrari. Ecco di seguito i risultati dell'indagine. È molto interessante l'indagine Nielsen sull'acquisto e la lettura di libri commissionata dal Centro per il Libro presieduto da Gian Arturo Ferrari. Il risultato più rilevante è che solo il 33% della popolazione italiana, un cittadino su tre, ha acquistato almeno un libro nell'ultimo trimestre 2010. Si tratta per lo più di donne, 54%, di un pubblico che risiede per la maggior parte tra il centro e il nord Italia e che ha un profilo giovane, tra i 25 e i 34 anni. La libreria resta il canale preferito, 65%, mentre un acquirente su 10 si rivolge ad internet. In media, il cittadino che compra libri ha speso circa 27 euro in tre mesi, cioè 9 euro al mese, per di più nel periodo più propizio per l'editoria, come quello natalizio, in cui il libro è anche un regalo. Gli altri non hanno speso niente. Dunque, il cittadino italiano ha sborsato in media per i libri 3 euro al mese. Se si va sulla lettura, le cose stanno ancora peggio. Le persone che hanno letto almeno un libro in tre mesi sono meno degli acquirenti. In tutto, 16,8 milioni. Altro che crescita o decrescita del PIL. C'è un prodotto interno lordo che procede più lentamente di quello economico, ed è quello culturale. Non si potrebbe immaginare niente di più catastrofico per lo sviluppo di un paese. L'industria editoriale, consegnata nelle mani dei super manager, non ha dato grandi risultati. O meglio, se le case editrici stanno economicamente meglio che in passato, il paese è rimasto culturalmente quello di sempre, se non peggio. E se si considera il sud, la situazione è ancor meno confortante. In Calabria, solo il 6% della popolazione ha acquistato più di 3 libri nel periodo preso in considerazione. Non si fa che parlare di ebook, ma rimane un mercato che non sfiora neanche l'1% del totale. Dunque, in attesa dell'onda digitale eternamente annunciata, parliamo di editoria cartacea. Un altro dato significativo dell'indagine Nielsen è che i libri nettamente più venduti, 20% del totale, sono gialli, polizieschi e thriller, cioè tutta quella massa di titoli che un tempo veniva ignorata dai sondaggi in libreria per il semplice fatto che, venendo considerata paraletteratura, finiva in edicola. Ora è la letteratura per eccellenza. Lo stesso vale per quel 7% che rientra nella categoria della narrativa rosa o d'amore. Ha ragione Ferrari, intervistato da Simonetta Fiori per La Repubblica, quando dice che la base dei lettori italiani è vergognosamente ristretta e nessuno dà un valore sociale al libro. Sarà vero che per migliorare le cose basterebbe che lo Stato investisse 10 milioni l'anno per un quindicennio? Se così fosse, scordiamoci ogni sogno di gloria. Visto che gli investimenti sulla cultura diminuiscono a vista d'occhio, dice Ferrari che l'unico momento storico in cui lo Stato unitario si è prodigato per allargare la lettura è stato il ventennio fascista. Non è un esempio valido, perché bisogna valutare che tipo di libri promuoveva. Fatto sta che, nel dubbio, la nostra democrazia, a giudicare da tutto, si accontenta di avere cittadini mediamente ignoranti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Siamo una democrazia mediamente ignorante» di Paolo Di Stefano, dal Corriere della Sera di martedì 29 marzo. Letture di Radio 24. Dal 68 francese alle recenti rivolte nel Nord Africa sono passati più di 40 anni e in questi 40 anni sono cambiati anche simboli e slogan delle manifestazioni. Contestualmente è però mutato anche il contesto sociopolitico di cui i ragazzi sono protagonisti. Così i manifestanti occidentali condividono le situazioni di quelli nordafricani. Nel primo Novecento i rivoluzionari europei cantavano «E noi faremo come la Russia». Nel 68 impugnavano il libretto di Mao. Ora tocca al Nord Africa. Il 23 marzo scorso il No Ledge Liberation Front, una rete internazionale di movimenti radicali di studenti, precari e lavoratori della conoscenza, ha indetto una conferenza stampa per annunciare 3 giorni di mobilitazione contro la finanziarizzazione delle nostre vite. Dal comunicato si evince che il primo oggetto di contestazione sono l'aumento delle tasse di iscrizione e i concomitanti tagli di budget che Inghilterra, Francia, Italia e altri paesi hanno imposto alle università. Una scelta, si scrive, funzionale a un progetto di mercificazione della conoscenza e precarizzazione del lavoro culturale. A colpire di più, tuttavia, è il riferimento alle lotte dei giovani insorti nordafricani, descritte come modello da imitare. Un anacronistico rigurgito terzomondista? Basta rileggere gli articoli che gli inviati di tutto il mondo hanno dedicato agli eventi di Tunisia ed Egitto per capire che non si tratta di questo. Se i giovani parigini, londinesi e romani possono identificarsi con i ragazzi del Cairo e di Tunisi, è perché sanno che si tratta per lo più di studenti laureati e neolaureati condannati alla disoccupazione, di persone che usano i social network come i coetanei europei, dei quali condividono ormai i valori culturali, e che l'impossibilità di trovare sbocchi occupazionali induce ad attraversare il Mediterraneo e approdare sulla sponda europea in cerca di migliori condizioni di vita. È quindi del tutto comprensibile che i giovani rivoluzionari europei li considerino rinforzi da arruolare nelle proprie battaglie. Comprensibile, ma per nulla scontato, nel senso che questa svolta ideologica è un sintomo impressionante della velocità con cui ha camminato la storia negli ultimi decenni. Il 68 rivendicava un'università di massa che, si sognava, avrebbe democratizzato la politica e l'economia. Ora che l'università di massa minaccia di divenire una fabbrica di precari, ci si specchia nel destino dei giovani diseredati del Maghreb. Che abbia ragione la sociologa della globalizzazione Saskia Sassen quando parla di terzomondizzazione dell'Occidente? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Bandiere giovanili, dal 68 francese alla primavera magrebina, di Carlo Formenti, dal Corriere della Sera di martedì 29 marzo. Il 9 maggio del 1978 veniva ucciso Peppino Impastato, politico, attivista, fondatore di Radio Out e simbolo dell'antimafia sociale. Una bomba lo fece saltare in aria sopra i binari di una ferrovia a Cinisi, in provincia di Palermo. Eppure, dopo oltre 30 anni, osserva Attilio Bolzoni sulla Repubblica, forse è stata fatta giustizia solo a metà. Cominciamo dalla scena del crimine. Cominciamo da lì per ricordare che la morte di Peppino non è ancora un caso chiuso. I binari, il terrorista steso in mezzo al suo sangue e ai frammenti della sua bomba. È la prima volta che la mafia usa l'esplosivo per un bersaglio facile, un ragazzo che se ne va in giro di notte e da solo per le campagne di Cinisi. Niente armi corte per un agguato, il modo più semplice per uccidere. Niente lupara bianca, il modo più mafioso per lasciare la firma. No, per Peppino hanno scelto come ambiente la linea ferrata, fra le sue mani il tritolo. Il ritrovamento della vittima che incolpa se stessa, una scena del crimine molto militare. Cominciando da lì, da quello che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, qualcuno oggi ha il sospetto che a volere morto Peppino Impastato non sia stato solo Gaetano Badalamenti, il boss di Cinisi che in Sicilia era una potenza e dal dopoguerra aveva regolato il traffico degli stupefacenti con l'America. Troppo diversa quella tecnica omicidiaria. L'omicidio di mafia, sia esso preventivo o dimostrativo, quelli del primo tipo ordinati per eliminare un pericolo per l'organizzazione, quegli altri per produrre paura, serve sempre a far capire a tutti chi è stato a volerlo. È la forza del segnale, dell'avvertimento. Gli omicidi di matrice mafiosa presentano caratteri strutturali talmente singolari da costituire una categoria assolutamente autonoma, non assimilabile ad alcun'altra nell'intero panorama criminale. Viene riportato in tutte le motivazioni delle sentenze delle corti d'assise del distretto giudiziario palermitano. La scena del crimine inconsueta, quasi più da operazione che da vendetta mafiosa, e poi un'inchiesta contraffatta per sostenere la tesi dell'attentato finito male. con le indagini concentrate sin dalle prime ore, esclusivamente sulla ricerca di prove contro la vittima. Come in un verdetto già scritto, Peppino è stato suicidato subito, da magistrati, da carabinieri, da testimoni reticenti. Prove scomparse, indizi cancellati, le sue carte prelevate da uomini in divisa e mai più ritrovate. Un inquinamento investigativo a tutto campo, percepibile dai primi sopralluoghi e dalle prime informative trasmesse alla Procura della Repubblica. Troppo sproporzionato quel depistaggio per proteggere solo un mafioso, seppure un mafioso importante, di peso, come Badalamenti. C'era probabilmente qualcun altro da coprire a Cinisi quella notte fra l'8 e il 9 maggio 1978, archiviato in più riprese come omicidio a carico di ignoti e poi più volte riesumato fino ad arrivare faticosamente alla condanna di Don Tano come mandante. Il caso impastato è uno di quei delitti siciliani dove si intravede una convergenza di interessi fra Cosa Nostra e altri poteri. Qualcuno vorrebbe ancora indagare, cercare, capire, anche perché chi allora aveva manovrato, alcuni ufficiali dei carabinieri, per accreditare l'ipotesi dell'atto terroristico, escludendo categoricamente qualsiasi altra pista, oggi è scivolato nelle investigazioni sulle trattative fra Stato e mafia all'ombra delle stragi siciliane del 1992. L'inchiesta sulla morte di Peppino non è stata sepolta nei sotterranei del Palazzo di Giustizia di Palermo solo per la tenacia e l'amore dei suoi compagni e per i lavori della Commissione parlamentare antimafia che nel 2000 ha svelato le prime mosse per lo sviamento delle indagini. A 33 anni dall'uccisione di quel coraggioso ragazzo siciliano, forse è stata fatta giustizia solo a metà. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Non solo mafia, 30 anni di depistaggi, a firma di Attilio Bolzoni, dalla Repubblica di domenica 27 marzo.